Pronto? Ciao, sono LeChuck. Sono entrato a far parte di Havana tra il 99 e il 2000 e come ci sono arrivato è abbastanza semplice. Per questioni anagrafiche non sono mai arrivato a collegarmi con la BBS quando era ancora in attività, ma ero un utilizzatore della rete di messaggistica Cybernet e successivamente un frequentatore del canale IRC Cybernet, il luogo di ritrovo di gran parte degli smanettoni, diciamo, alternativi italiani all'epoca. E da qui, tramite una serie di conoscenze che ne facevano parte, approdai in Havana. Dopo un'esperienza entusiasmante, devo dire, di Acme Meeting 2000, resa unica dall'ambientazione veramente surreale delle celle del Forte Prenestino, decisi che avrei fatto parte del progetto e cominciai a frequentare le riunioni della prima stanzetta. Personalmente non ho mai avuto grandi doti comunicative, ma sono sempre stato interessato alle tecnologie, soprattutto quelle legate alle reti, e l'ho sempre vista come uno strumento ineguagliabile per la divulgazione delle informazioni. Probabilmente sembra un po' strano adesso, nel mondo di oggi, dove l'accesso a internet è a prezzi stracciati e esistono molteplici sistemi di comunicazione. Ma all'epoca Havana era un posto per me veramente interessante. Era un laboratorio che poteva a disposizione questi strumenti di comunicazione per chiunque avesse avuto delle cose da dire e non avesse avuto le capacità tecniche per farlo. Da lì la partecipazione a progetti come Indymedia e il supporto al nodo romano locale. La partecipazione al progetto Autistici Inventati, di cui ancora faccio parte, i corsi del JetNet, prima fatti solamente da noi in solitaria e successivamente allargati in collaborazione con gli hack club, con altri hack club romani, come il Bugs Lab della Torre e di Strike, o successivamente la costruzione del Media Lab, che doveva essere un laboratorio, un punto d'accesso gratuito per chiunque lo volesse utilizzare, per chi volesse navigare, per chi volesse tenere corsi, per chi volesse montare video, possibilmente utilizzando strumenti open source, che era un altro dei temi fondamentali del progetto, ovvero l'utilizzo di software open e la divulgazione di Linux e altri sistemi operativi che seguono questa filosofia. È stato insomma un susseguirsi di attività, dalle più grandi alle più piccole, che possono spaziare veramente dall'aiuto nell'organizzazione tecnica della copertura di grandi eventi come il G8 di Genova, ai servizi di comunicazione del Forte Prenestino che gestivamo internamente insieme a Meguan su un paio di macchine veramente sgangherate e distrutte dall'umido. Se poi dovessi dare una definizione di Havana, per me Havana è un nome collettivo, un progetto che è stato attraversato da molteplici identità nel tempo, ognuna con le sue peculiarità e ognuna con i suoi desideri e una visione del progetto stesso. Ed è forse questa la caratteristica che le ha permesso nel tempo di cambiare e di adattarsi al mondo circostante. Personalmente, per me è stata una delle esperienze più importanti della mia vita e sono molto contento che ora ci sia ancora qualcuno che la porti avanti e che stia attraversando una nuova fase. E seppur da lontano, come mero, diciamo, vecchietto, posso ancora farne parte. Ritengo inoltre che ora che gli strumenti di comunicazione sono ormai di libero e semplice accesso per tutti quanti, e quindi il problema non è più quello che tentavamo di affrontare noi, ovvero, o personalmente che tentavo di affrontare io, ovvero fornire gli strumenti alle persone, fornire le tecnologie a chi avesse voglia di comunicare. Adesso si sta attraversando una nuova fase, questi strumenti ormai sono veramente alla portata di tutti quanti, e ora bisogna imparare ad utilizzarli nella maniera giusta, bisogna imparare a scavare nell'enorme quantità di informazioni che ci circondano e bisogna imparare ad utilizzare queste informazioni che sembrano a nostro utilizzo gratuito, ma in realtà sono pagate a caro prezzo in cambio delle nostre informazioni personali, in cambio del controllo. Ma questo lo lascerei spiegare a chi ne è parte attiva adesso e non a me che ormai sto in pensione.